Ciao ragazze! Ciao! Ciao! Dai, va bene, iniziamo! Oh, no, ed eccoci qua, buonasera, adesso siamo in diretta per davvero, eccoci qua, quindi vabbè, 9 minutini, 10 minutini di ritardo, ce lo perdonerete assolutamente. Quindi rieccomi qua con Nervature, io sono Addu e come purtroppo non ogni lunedì alle 19 circa, appunto la trasmissione vi parla di piante, giardinaggio, biologia e quant'altro, cerca di accompagnarvi e farvi compagnia per appunto un'oretta, un'oretta e mezzo, a volte qualcosa di più. Appunto sono stata in pausa, diciamo, natalizia per un po' di settimane e devo dire che però questo inverno si sta rivelando un po' dedicato alla musica, perché per 3 settimanine, proprio quelle che erano intorno a Natale, vi ho mandato delle repliche di vecchie puntate del format Chiacchiere Melodiche, in cui l'avrete forse sentite, appunto ci siamo divertite a raccontare e analizzare un po' di canzoncine a tema piante, e oggi in realtà continuiamo con questo filone che mi piace tantissimo, che mi foga un monte. Perché anche oggi parleremo di musica in modo super, super approfondito. Però per ora non vi dico nient'altro, vi lascio un po' sulle spine. Quindi vi faccio intuire di cosa si tratterà da un bel pezzettone iniziale e poi ritorno in voce fra pochissimo. Cresce come un'onda, come un fiore sboccia, nasce dal pensiero, prende forma, è un sentiero. Ascoltami, non c'è più tempo, arrenditi al riconoscimento, apriti, ti devi svegliare, arrenditi, per fiorire devi rinunciare. Cresce come un'onda, come un fiore sboccia, nasce da un pensiero, prende forma, è un sentiero. Il mondo è grande, tienti pronto. ebbene sì, si tratta di quel meraviglioso, magico mondo della reggae dub music, che bellezza. E quindi sì, tra poco, non subito, ma tra pochissimo, saremo al telefono, quindi in live ai microfoni con Amparito MC e Freddy Stork, per cui rimanete connesse. Prima però vi devo dare un annuncio importante. Allora, se voi ascoltatrici e ascoltatori siete così tanto fedeli che non solo ci ascoltate in diretta, ma andate addirittura a rivedere i podcast sul sito, vi sarete accorte che con Nervature ci stiamo molto velocemente avvicinando alla 100ª puntata. Ebbene, io sono focata per la radio e questo è ovvio, e quindi ho deciso che la 100ª la voglio festeggiare. Quando sarà, quindi, di preciso? Sarà il 2 febbraio, che è un lunedì, ovviamente, perché si trasmette di lunedì qui su Nervature. E quindi vi invito tutte, la radio, il Wombat vi invita a partecipare a questi festeggiamenti che si svolgeranno, appunto, come ho detto, il 2 febbraio al Centro Sociale Next Emerson, quindi a Firenze, in zona Firenze-Castello, per intendersi. E la serata, bene o male, si svolgerà così a grandi linee, ovvero ci sarà la solita mia diretta, quindi dalle 19 in poi. La grande differenza è che sarà, non nella regia perché è uno spazio troppo piccolo, quindi sarà messa in uno spazio, diciamo, fruibile, che è quello accanto al bar del Centro Sociale Next Emerson. E quindi ci saranno microfoni aperti, quindi una diretta live, microfoni aperti. L'invito è appunto a venire, salutare, far duciane, due chiacchiere, raccontare qualche pianta storia, che, come ormai sapete, appunto, la storia della vostra vita personale che riguarda una pianta o più piante. E poi la serata si svolgerà che ci saranno microfoni aperti fino a 8:30, 9:00. Nel frattempo, a un certo punto, apparirà la cena, quindi cena, prezzi popolari. Durante tutta la serata ci sarà il banchino della radio, quindi potrete comprare qualche nostra maglietta, vi daremo un sacco di adesivi, vi riempiremo le tasche e i portafogli di adesivi. E poi dopo diciamo, seguiranno aggiornamenti di conferma, però ci dovrebbe essere un DJ set carino. Quindi dove potrete trovare queste informazioni, ancora non ci sono, ma ci saranno a breve, sul sito di lapunta.org, che è un sito di eventi, diciamo, underground, appunto, dell'area fiorentina. Sono molto emozionata, siamo molto contente di condividere con il nostro pubblico, che spesso e volentieri è soltanto al di là delle nostre frequenze, al di là di questi microfoni, e spesso e volentieri, appunto, non lo vediamo, e invece siamo molto emozionate di potervi avere proprio davanti a noi, e chissà, magari anche ai microfoni. La ripeterò questa cosa a fine puntata, vi martellerò un po', la ripeterò anche settimana prossima, quindi non potrete non saperlo. Che dire, il mio l'ho fatto, quello che forse mi manca sarebbe da darvi un attimino di contattini della radio, poi smetto di parlare in modo così fastidioso, ve lo giuro. Vabbè, lo sapete, dai, però ridiciamolo, siamo su Radio Wombat, la radio libera e autogestita di Firenze. Il nostro sito è radiowombat.net e ci ascoltate o tramite il sito con lo streaming oppure dalle vostre mega magiche radioline in AM sulle frequenze 1359. Altra informazione non importante, importantissima di oggi è il pad. Il pad è il metodo che avete per chiacchierare con noi in diretta, e quest'oggi è più che mai importante perché abbiamo addirittura degli ospiti, appunto, ai nostri microfoni e al telefono, in realtà. Quindi, se volete fare domande, fare saluti, potete aprire il link direttawombat.vado.li e potete scrivere. Voi scrivete, io lo vedo subito e vi rispondo in diretta. Direi che metto un altro pezzo che avete ormai capito essere tra i brani, appunto, di chi andremo a sentire ai microfoni fra pochissimo, e poi, ecco, appunto, ci risentiamo ai microfoni. Vediamo un po' se vi mando questo Foresta. Yo, eccoci qua, ritornate in voce. Siamo appunto in chiamata con Amparito MC, ci senti? Ciao Addu, ciao a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori. Dai, perfetto. Sono sempre emozionata comunque quando faccio chiamate in diretta, non si sa mai. Ti capisco, anche io. Le cose possono andare storte, ma... Sì. Beh, abbiamo fatto sentire già due vostri brani, abbiamo fatto sentire Manifesto Animista e questa appena terminata era Foresta. Immagino che molte delle ascoltatrici e ascoltatori qui appunto in diretta si staranno chiedendo cosa andiamo a dire oggi, di chi parliamo, magari non tutti già vi conoscono. E quindi io direi di iniziare questa intervista appunto chiedendovi un po' di autopresentarvi. Quindi appunto ho già annunciato che siete Amparito MC e Freddy Stork, però ecco, da qui in poi ti lascerei la parola. Grazie, Addu. Allora, molto volentieri. Anzi, fermami se parlo troppo che a volte mi parte la parlantina, come si dice. Siamo in due. Allora, noi siamo nati forse 3 anni fa, diciamo, come progetto musicale. Freddy in realtà è nel mondo della produzione musicale già da diverso tempo, ha iniziato come produttore di musica elettronica e poi si è spostato verso il reggae dub. ha diverse produzioni già, insomma, vanta già diverse produzioni pubblicate. Noi ci siamo conosciuti a Roma, nel mondo delle serate, frequentando entrambi un collettivo che si chiama Star Bene, una radio anche a Star Bene, che si occupa soprattutto di musica reggae. E diciamo, durante il Covid abbiamo cominciato a stringere un sodalizio musicale, diciamo, perché appunto io prima mi occupavo all'interno del mondo musicale solo di fotografie e video, di comunicazione, era questo il mio ruolo, diciamo, di solito alle serate, ma ho sempre cantato, ho studiato canto quando ero piccola, mi è sempre piaciuto, e durante il Covid casa mia era piena di produttori, era pieno di musicisti, e quindi non si potevano fare serate, non si potevano fare foto, e quindi niente, ho cominciato così a sperimentare un po' sulle basi di Freddy Stork. E dopo un primo periodo così di prove, diciamo, e a un certo punto abbiamo detto, beh, ma perché non mettere insieme un piccolo EP, visto che io di temi ne avevo tanti, lui li condivideva, e quindi nasce, diciamo, in modo, ti direi, un po' organico, perché non c'è, nei nostri processi artistici c'è sempre una componente di, diciamo, di non progettazione, ci affidiamo spesso a quello che viene in modo organico, e in modo organico è nato questo primo EP, in cui abbiamo concentrato, insomma, tematiche che mi erano care. Tieni conto che noi, dopo il Covid, grazie al Covid, se vuoi, a quel periodo allucinante in cui ci siamo ritrovati chiusi nei nostri piccoli loculi urbani, in questi appartamenti cittadini, insomma, in modi diversi siamo andati un po' in crisi. Io personalmente mi sono chiesta, ho dovuto guardare in faccia il fatto che la vita cittadina non mi faceva stare male, diciamo, e quindi ho cominciato a fare un periodo per campagne, e in questo periodo, insomma, ho cominciato ad appassionarmi al mondo delle piante, al mondo degli ecosistemi, al mondo degli animali, quindi ad approfondire tematiche antispeciste, e a fare anche, inizio una ricerca anche in senso femminista, e quindi per me tutti questi temi, tutte le grandi, diciamo, idee politiche che sono state importanti per me nella vita, dall'antispecismo all'antirazzismo all'antifascismo al femminismo, sono confluite in quella che per me è la base di tutti questi pensieri, e cioè l'animismo. Per me è il minimo comune denominatore di tutte le cose in cui credo, e quindi gli abbiamo dedicato questo primo EP, senza nessun tipo di progetto pretesa, l'abbiamo solo registrato, cioè in realtà l'abbiamo prima cantato tantissimo, perché molti di questi pezzi sono nati proprio durante i live che abbiamo cominciato a fare in giro per l'Italia, in giro per festival, in giro per spazi occupati, cominciavano a nascere queste canzoni, e dopo un po' giustamente Freddy mi dice, ma che dobbiamo fare, ma le vogliamo registrare? E quindi le abbiamo registrate, e questo primo EP che abbiamo pubblicato ci ha portato una valanga di soddisfazioni, perché non ce lo aspettavamo, ma è stato recepito da tante persone, più che altro da persone belle, profonde, che ci hanno aperto altre vie, che ci hanno aperto le case, i cuori, e quindi sai, da cosa nasce cosa, si è creata una rete, no? Come abbiamo cominciato a micorizzare in giro. Giustissima terminologia. Sì. E quindi, insomma, da lì poi il passo è stato naturale. Tieni conto che per questo primo EP abbiamo fondato insieme un'etichetta che si chiama Stork Tales Record, i racconti della cicogna, e piano piano abbiamo cominciato ad attirare, proprio a manifestare, ad attirare artisti simili a noi, e quindi ad oggi siamo in sei all'interno di questa etichetta, con due oltre noi altri due produttori già pubblicati, uno è Compaman, l'altra è una produttrice toscana, tra l'altro, che si chiama Wild Step, e niente, diciamo, abbiamo creato questo gruppo di persone che avevano idee simili sulla musica, quindi una musica la cui missione è l'evoluzione, e quindi, se vuoi, anche la contaminazione, senza paura, no, di infrangere un po' le etichette dei generi, cosa che invece magari negli ambienti, anche in quelli underground come i nostri, sono forti le etichette, i confini sono a volte rigidi, diciamo. E noi così, senza paura e senza con un po' di irresponsabilità, siamo andati avanti. E poi siamo arrivati al secondo EP che si chiama Radicante. Per me i due EP in realtà fanno parte di un unico percorso, come se fossero un discorso unico in parte 1 e in parte 2, tant'è che se mai lo pubblicheremo, probabilmente li pubblicheremo insieme in un unico supporto. E quindi così, diciamo, e ogni giorno che passa ci regala delle emozioni pazzesche, perché ne parlavamo l'altro giorno, no? Non avendo mai fatto un vero piano di comunicazione o di pubblicità, diciamo, e non avendo mai avuto pretese, almeno per quanto mi riguarda, no? Di campare di questo, di farlo come professione, perché la mia professione è un'altra, l'obiettivo era proprio creare rete, creare comunità, no? E quindi devo dire che in questo siamo riusciti, è stato molto bello. Penso che se ci stanno ascoltando un po' delle persone che in questi 2 o 3 anni ci hanno invitato a suonare, vorrei che sorridessero pensando a quanto è stato bello stare insieme, diciamo. Che bello, penso che lo stiano facendo, cioè da come parli e sei veramente coinvolgente. Bello, bello, bellissimo. No, appunto, è anche un po' emozionante sentire un po' come te dici, avete un po' infranto magari le regole o comunque non vi siete magari posti magari il problema, no, di potenzialmente infrangerne. Sicuramente è vero, però è anche vero che se l'avete fatto anche perché avevate da esprimere e anche in modo molto, a quanto pare, un po' naturale, no? Da come almeno Sì, raccontavi come è nato il tutto. è stato Quindi. naturale ogni passaggio, sì, è stato necessario, no? Sai, come un fiore che sboccia proprio, la canzone poi dice quello, è un po' quel sentimento quando ti sintonizzi su un certo tipo di vibrazione, no? Le cose vengono da sé, sembra un discorso fricchettone, ma effettivamente per noi è stato così, tant'è che ci piace, ma da una parte sicuramente la nostra non progettazione deriva da una disorganizzazione, diciamo, e dal fatto che insomma potremmo dedicarci più tempo, ma dall'altra c'è una volontà un po' anarchica del mantenerci più aderenti al flusso, che alle strutture che ci imponiamo, che ci prefissiamo, e fino adesso ci ha premiato, diciamo. Ed è bellissimo. E tra l'altro in questo discorso anche il fatto che dicevi che non vi siete tanto concentrate riguardo alla comunicazione, perlomeno per ora, è interessante il fatto che però siamo qui a parlarne in una radio su streaming Sì, aperto e libero, esatto. quindi. E queste sono le soddisfazioni di cui ti parlavo. Esatto. Il Senti, ti messaggio dove farei. deve arrivare arriva. Esatto, ti farei una domandina un po' così forse formale, però non so perché sono sempre curiosa al riguardo. Come, da dove diciamo vengono fuori i vostri nomi d'arte e se c'hanno una ragione dietro? Allora, io mi chiamo Amparo proprio è il mio vero nome, l'ho ereditato dalla mia nonna perché io ho origini latinoamericane da parte di mamma e quindi, insomma, avendo questo nome che tra l'altro significa protezione, ho pensato che non valesse la pena sceglierne un altro artisticamente. Amparito ovviamente è il diminutivo vezzeggiativo, se vuoi, no? MC sta appunto per Master of Ceremonies, cioè colei che tiene il microfono durante una serata, non solo cantante, ma anche quindi soprattutto nella scena dub, nella scena sound system, è un personaggio importante che oltre a cantare comunica dei è appunto maestra di cerimonie, maestro di cerimonie, no? Quindi porta avanti la cerimonia, quindi la festa intesa come rituale. E quindi ho deciso di chiamarmi così. E per quanto riguarda Freddy, è qui davanti a me, non so se vuole rispondere o vuole sentire come io interpreto il suo Se nome, te lo vuole, faccio. siamo ben contente. Ciao, buonasera a tutti. Eccoci, che bello Eccoci. avere addirittura ancora una persona in più ai microfoni. Prego, dici tutto. Allora, per quanto riguarda il mio nome, invece il discorso è molto più semplice perché Freddy Stork sta per Federico Cicogna. Cicogna è il soprannome che mi davano da quando sono bambino e Federico è il mio nome. Bellino, che bello. Quindi sì, molto semplice. Ci sta un botto. Ok, a questo punto direi magari mettiamo un altro pezzo vostro e già che siete qui ai microfoni con me, se mi volete suggerire uno in particolare, io ce l'ho tutti davanti. Ok, Beh, direi che a questo punto ci possiamo sentire desiderio vegetale. che è quello successivo all'interno del vostro Sì, primo EP. Vai, sì. perfetto. E desiderio vegetale sia. Yes. te voy a pedir perdón si no te gusta la canción. Despértate, esta es mi misión. Despértate. Hey, join the revolution. Escúchame, levántate, canta, baila y quiérete. Escúchame, levántate, canta, baila y quiérete. Questo era Desiderio Vegetale, super bella, mamma mia, anche vorrei essere una pianta spesso. Mamma mia, da morire. Davvero. Tantissimo. Tra l'altro appunto vi dicevo anche fuori ai microfoni, non vi ho dato il tempo di, non so, introdurre la canzone, se volevate dire qualcosa, non so se lo volete fare adesso. Ma sì, guarda, diciamo queste, come ti dicevo, no? Questo disco ho cominciato a scriverlo quando ho cambiato finalmente contesto di vita e dalla città ho cominciato a vivere in contesti più naturali e soprattutto ho cominciato ad appassionarmi alla botanica, alla fisiologia vegetale, perché ho iniziato dal riconoscimento di spontanee e sono passata poi alla permacultura, e poi ho cominciato un corso come manutentrice del verde che poi è la giardiniera di parchi storici, adesso sto seguendo, diventata una droga ovviamente studiare le piante, e adesso sto formando come tecnico superiore del verde perché vorrei specializzarmi in arboricoltura, e quindi insomma più mi addentravo nella vita delle piante, insomma più facevo questa pratica animista, no? Di riconoscere l'identità vegetale anche insomma in questi organismi che sono così diversi da noi, che facciamo così fatica a capire perché stanno fermi e sembrano, no, non sembrano vivi, stanno lì. Invece fare questo sforzo, questa protendersi in questo modo verso questo genere, questo tipo di vita, mi fa vibrare, cioè mi emoziona, mi apre tantissimo la mente, e quindi questa voleva essere un po' una canzone per celebrare questo incontro con le piante, diciamo. Wow, meraviglioso. Tra l'altro hai totalmente risposto alla domanda che ti avrei fatto tra un secondo. Ti volevo appunto chiedere come eri arrivata a appassionarti alle piante, quindi direi che ci siamo. Eh sì, e il percorso è stato quello, tra l'altro un percorso che ho attraversato cantando, perché ogni corso, ogni comunità insomma che ho conosciuto, ci abbiamo suonato, no? Comunque è venuta a conoscenza della musica, e molte di queste canzoni sono diventate un po' degli inni o dei mantra, quindi insomma tutte le arboricoltrici, gli arboricoltori, i riconoscitori, le raccoglitrici all'ascolto, le permacultrici, mando un grande bacio a tutta questa fantastica comunità di persone che cura gli ecosistemi. Sì, faccio altrettanto, e anzi spero un po' che anche il fatto di essere qui ai microfoni con voi, di parlare di questi argomenti e non solo, farlo insieme, farlo con altre persone, appunto con l'idea un po' di creare rete, sia proprio la... Che, insomma, che non ci sia bisogno anche che ogni volta si ridica che bisogna interessarsi a questi argomenti, o comunque rende tantissimo indietro il fatto di interessarsi. Noi seminiamo. Esatto. Senti, a questo punto è un po', diciamo, già anche a questo in parte mi hai risposto, però appunto ero un po' curiosa di capire. Quindi mi pare di capire che attivamente il vostro progetto musicale è appunto una condivisione, un momento bello, un divertirsi insieme, ma è anche un diffondere un certo tipo di ragionamento, un certo tipo di etica, di messaggio. E quindi volevo capire anche magari fra di voi, appunto fra te e Freddy, come diciamo... se magari vi confrontate proprio attivamente su questo, di che temi parlare, in che modo, a cosa dare più voce. Sì, assolutamente. Fortunatamente condividiamo, diciamo, le basi di questi, di questo sentire, no? Quello che Freddy magari ha portato a me è una quotidianità, una familiarità con gli spazi occupati, con le lotte politiche urbane, e, a cui ho aggiunto questo tipo di interesse, se vuoi, agroecologico, ed è in continuo divenire, assolutamente, nel senso che se penso a quando l'abbiamo scritto, tutte le persone che hanno ascoltato, hanno dato i loro feedback, tutte le esperienze che hanno fatto, hanno aggiunto tasselli in qualche modo. E quindi, ecco, ti direi... Anche questo è un po' un processo collettivo, allora. Che è un processo collettivo, esatto, sì. Io, soprattutto negli ultimi 2 anni, ho fatto esperienza per la prima volta nella mia vita di cerchi di donne, e, insomma, di approfondimento femminista, se vuoi, di diverse tematiche. Cioè, saluto, tra l'altro l'ho sentita ieri, vorrei salutare, non so se mi sta sentendo perché non so che ore sono in Argentina, ma vorrei salutare Lorenza di Pedagogia Ciclica. Ti consiglio anche a te e a tutte le donne all'ascolto di avere a che fare con lei nella vita. E lei mi ha aperto un grande mondo. E quindi ecco, è il confronto con le persone che ci porta a sviluppare, è proprio nel pratico, non so come dirti, no? Noi investiamo tantissimo, più che sulla comunicazione, più che sulla pubblicità, sui nostri live, sui momenti proprio di celebrazione, di festa, è lì che noi facciamo politica, perché scegliere di suonare in un posto rispetto che in un altro è politico, no? Al di là di quello, oltre quello che tu dici. E quindi è con le persone che noi abbiamo, che noi sviluppiamo il nostro sentire politico, quindi insomma con tutto il gruppo della Storytales Record, con cui condividiamo un certo tipo di musica, ma con tutte le sibille all'ascolto con cui condivido l'essere femmina, no? E il voler vedere il mondo con occhi di femmina. E quindi ecco, insomma, non so se ho risposto, sto divagando forse. Sì, no, è tutto mega connesso, non stai divagando, anzi. Ok, sì, mi torna molto appunto tutto il filo logico del discorso. È molto bello anche questo interesse per la collettività, per la rete che avete. Guarda, tra l'altro approfitto per dirti che abbiamo 2 date a ravvicinare a stretto giro. Una ce l'abbiamo il 24. Saremo a Case Matte all'Aquila, uno spazio occupato molto bello. Tra l'altro questo è un periodo importante per supportare questi spazi che sono quasi tutti a rischio, insomma, sotto minaccia di sgombero. Sì. E saremo con altri fratelli di Monkey Man, un sound molto giovane, autocostruito, che è nato all'Ex Nia, che è uno spazio qui di Roma. Mm-hmm. E quindi ecco, uno sarà questo evento che sarà a supporto appunto di Case Matte. E l'altro evento a cui parteciperò non con Freddy ma con la mia sorella Wild Step, quindi la produttrice toscana di cui ti parlavo, mm-hmm. con cui abbiamo un set che senza paura sfocia nella techno. e con lei parteciperemo a un evento bellissimo, un evento al Circolo Spazio Tempo, organizzato da un'altra sorella e musicista che si chiama Moon Sister, e il cui tema centrale è appunto il carcere anche nella sua dimensione femminile. Ci saranno letture di testi scritti da carcerate e insomma, bellissimo. Ci sarà una proiezione, sì, è un altro tema che a me è molto caro. Sarà il 30 gennaio, il 30 quindi. Di gennaio, sì, al Circolo Arci Spazio Tempo, che saluto, anche lì c'è un pezzo di famiglia che amiamo tantissimo. Okay. A Recanati, nelle Marche. Dai, bellissimo. Grazie, sì, ovviamente. Poi a fine, magari a fine puntata li ridiciamo e ridiamo, sì, tutti i recapiti appunto precisi. Senti, forse vogliamo mettere un altro pezzo? Sì, guarda, visto che ho nominato le Sibille, ho nominato Lorenza, ho nominato queste sorelle, direi che possiamo sentirci Principessa Ortica. A voglia. Bellissimo. A tra poco. Poco. E rientriamo di nuovo in voce. Questa era Principessa Ortica, sempre Amparito MC e Freddy Stork qui ai microfoni con noi. Siamo su Radio Wombat, siete su Radio Wombat e vi esorto ancora, se volete scriverci per fare un saluto o anche assolutamente fare domande ai nostri ospiti qui al telefono, ci potete scrivere tramite il pad. E il link, ve lo dico, è direttawombat.vado.li. Quindi assolutamente aprite, scrivete, io leggo e vi si risponde. Che dire, che dire? Allora ripartiamo, quindi c'è ancora un sacco di cose da chiedervi, quindi... Vai! Senti, ecco un'altra domandina che mi diverto sempre a fare, a volte è un po' stronza, a seconda dei casi, ma è se... Se mi raccontate, se ci raccontate di come funziona il vostro processo creativo, se c'ha magari una, una formula con cui si manifesta ogni volta. Cioè, mi fai segni da lotta kung fu. Allora, sì, il nostro processo creativo, ovviamente in linea con quello che dicevo prima, anche lì c'è una grande eterogeneità e spontaneità e follia. E ovviamente in generale lui è il produttore e io sono la paroliera e interprete, quindi diciamo nel caso più standard, no? Io magari ho, non so, mi viene una parola, una frase, un tema, no? Comincia a venirmi. Poi di solito è quando vado a ballare, noi andiamo a ballare, andiamo a sentire un altro sound, parte un rhythm e a me mi viene in mente una cosa, perché questa è una melodia, mi viene in mente una frase, un tema. E quindi poi ci mettiamo, lui tira fuori, bam, senti, comincia a produrre e diciamo nel caso standard più di Liaco procediamo insieme, no? Io comincio a cantarci sopra, lui comincia a modificarla, diciamo la maggior parte delle volte è andata così. Poi ci sono stati dei casi in cui io finivo prima, cioè non so, avevo il testo mi veniva in una notte e lui mi portava roba del suo repertorio e le mettevamo insieme e... In rarissimi casi è successo che io avessi le idee musicali più chiare, quindi si guarda, voglio questo e questo, mi immagino proprio questo e questo. Però ecco, non so, questa è una cosa, è una sensazione che io racconto, che non è facilissima da raccontare, ma magari se c'è qualche altra cantante nel mondo che percepisce la stessa cosa, magari mi dirà sì, lo provo anch'io. A me succede di sentirla prima, cioè non so. Sto sentendo anche un altro ritmo, un'altra base, e dico, oddio, ma ci sta cantando qualcuno sopra? E io la sento già nella mia mente, ok? Quindi anche lì, quando ci devo mettere troppo, non esce. Di solito escono in maniera molto più organica, più immediata, cioè come se stessero molto tempo nella mia mente a maturare, e poi, bam, a un certo punto escono. Quindi almeno... Tutte le tracce che abbiamo messo poi in questi due EP sono state tutte così. Cioè una volta che era uscita da noi, era quella. Poi ovviamente mesi e mesi di aggiustamenti, di litigate. Certo. Devi sapere che noi abbiamo una tradizione. Cioè noi ci mettiamo tanti... Allora, per registrarla ci mettiamo pochissimo. Noi in due giorni abbiamo registrato tutto di solito. Poi ci vuole un mese di master, di mix, di master. Insomma andiamo ad aggiustare i pezzettini così. Quando è tutto pronto, proprio nel senso che abbiamo la scadenza che dobbiamo pubblicare, no? Abbiamo detto che pubblichiamo tra 3 giorni, quello è il momento in cui a Freddy ci facciamo una litigata, che ormai lo sappiamo, quindi la lasciamo anche quella scorrere nel suo processo, perché sappiamo che è il nostro modo di, insomma, di gestire la pressione. E poi niente, e poi usciamo e va tutto bene. Ecco, vedi, è questo che intendevo, che è un po' una domanda stronza a volte, sì, esatto, sì, che sì, tira sì. fuori cose a volte troppo intime. Sì, abbiamo avuto anche mia sorella, tra l'altro, una delle, devi sapere, manifesto animista, per ogni canzone ho coinvolto un'illustratrice diversa, e c'è anche mia sorella che è una grande illustratrice, si chiama Dinamite, la trovate su Instagram, e fa un sacco di illustrazioni, ha fatto un sacco di illustrazioni per cover di album, insomma del panorama dub. Mia sorella poverina era lì presente ad assistere a questa sfuriata che ci siamo fatti, per poi, cioè, su una canzone che dovevamo modificare, abbiamo litigato su come modificarla e poi alla fine l'abbiamo lasciata com'era, per farti capire tutto il giro che abbiamo fatto sempre così. Ma avete modificato voi stessi, magari. esatto. Ok, no, grazie. Cioè, dal punto di vista nostro magari può essere divertente questo racconto, poi io non so com'è, che magari è anche un po' turbante tutto il processo, come lo dici, non so. No, quando sei lì dentro è devastante, ovviamente. Devastante. Chiaro. Diciamo che è complicato, no, gestire un rapporto di coppia e quel tipo di pressione, sebbene noi poi non è che, diciamo, abbiamo chissà che aspettative, non è che abbiamo... manager sopra o tour costruiti al dettaglio e tanti soldi spesi, no? Certo. Però comunque girare, fare tante ore di viaggio, arrivare in un posto, no? Fare in modo che insomma, di avere sempre il dovuto rispetto per il posto in cui arrivi, no? Magari devi mettere in secondo piano cose personali, perché in quel momento sei lì per il rituale, sei lì per la celebrazione, in quel momento Sì, certo. Devi passare soprattutto, insomma. Bene, a questo punto, sempre per continuare a essere fastidiosa, no, scherzo, ti avevo già preannunciato e te l'avrei chiesto, quindi non mi faccio problemi. Se ci volete raccontare una canzone nello specifico, cioè delle tutte le vostre avete fatto uscire, se una magari perché ha un messaggio specifico, magari perché è nata in un modo particolare, se ce la volete un po' sviscerare. Ma guarda, ce ne sono due che mi piacerebbe parlare. Visto che ho parlato della famosa litigata, direi che potremmo sentirci quella, che è 8 billion people, scusate, grazie che c'è Freddy della Vergine che mi corregge, perché se no io dal mio segno di fuoco farei solo bordelli. 8 billion people, che è una canzone del secondo EP, ed è proprio quella su cui litigammo, perché come sentirete all'inizio c'è una voce robotica che io volevo a tutti i costi che dicesse questa frase, però diciamo nella post-produzione di questa voce non andava bene niente. Poi devi sapere che io mi incastro facilmente, diciamo, sono in grado di riregistrare 100 volte una cosa per poi decidere di ritornare alla prima. Freddy c'ha una pazienza incredibile, cioè, fortunatamente a seconda questi processi. E quindi ecco, su quella canzone ci fu una fortissima litigata, ma secondo me, ecco, adesso che è passato quasi un annetto, diciamo, dall'uscita del secondo EP, mi rendo conto che è ovvio che doveva esserci, perché quella canzone è la canzone in cui io e anche Freddy, in cui abbiamo catalizzato tutto il nostro la nostra fatica a vivere dentro Babylon, no? Babilonia, nel mondo reggae Babylon è il mondo appunto lontano dalla natura, il sistema, no? Il sistema corrotto, e quindi per noi la città per estensione. E siccome appunto dopo questo lungo periodo fuori, proprio per studiare poi arboricoltura, già sapevo che sarei dovuta tornare in città, quella canzone in qualche modo catalizzava tutto questo processo, questo sentimento, no? Che del sentirci soli tra 8 miliardi di persone. Quindi ecco, questa è la canzone, vorrei sentire questa. Vai, perfetto, allora la mandiamo subito. Questa quindi è 8 billion people. Billion people. Feel alone among 8 billion people. How can you feel alone among 8 billion people? How can you feel alone among 8 billion people? How can you feel alone among 8 billion people? Among 8 billion people. Di ambizione, rinuncio volentieri alla competizione. Il fallimento è liberazione. Uccidi in te stesso sia lo schiavo che il padrone. Sì. Ed eccoci qua, abbiamo anche le aiutanti qui in regia, non devo fare più niente al mixer, che bello! Ed eccoci, eccoci, sì, ci siamo fatte un po' prendere, abbiamo lasciato un po' di musica, quindi 8 Billion People e quest'ultima che avete sentito era Non ci sto. Se vuoi, come sempre appunto, se volete dire qualcosa riguardo a quest'ultima, non l'avevate presentata, tanto siete qui con noi. Sì. Questa è stata una di quei rari casi in cui appunto avevo molto chiara la linea melodica, la canzone, la produzione che desideravo sotto, quindi è stata, l'ho ovviamente prodotta a Freddy, io non sarei mai capace, però insomma è riuscito perfettamente a riprodurre quello che avevo nella mia testa. E all'inizio per me doveva essere la canzone simile a Principessa Ortica del secondo P, quindi doveva essere una canzone in cui io diciamo incarnavo il mio punto di vista e parlavo in prima persona, e invece in un assurdo flusso di coscienza mi è uscita questa sbrodolata di frasi che per me diciamo sono le frasi violente, sottilmente violente, che mi sono state riferite nella vita, e quindi diciamo una canzone contro quella sottile violenza patriarcale quotidiana che si esprime in un certo modo di parlarci e di giudicarci gli uni con gli altri, e quindi insomma così. Ero un po' in ansia al farla uscire perché non sapevo se sarebbe stata compresa, invece alla fine è andata. Certo, è andata e come. Senti, allora ci stiamo avviando verso diciamo le ultime domande, gli ultimi temi un po' da toccare, e quindi vi diciamo proiettandosi verso il futuro vi volevo chiedere se avete nuove uscite in programma tra appunto te e Freddy, e poi vi chiedo magari anche meglio dell'etichetta. Sì, allora Freddy adesso ha iniziato con un progetto bellissimo di pubblicazione di dublate esclusivi, quindi di versioni esclusive mai pubblicate, che durano però un solo mese, quindi tramite i social, tramite i canali social, Freddy Stork Production o Stork Tales Record, scrivendo in DM, si possono ottenere questi pezzi che durano solo un mese, che lui pubblica solo per un mese, quindi questo progetto per tirare fuori insomma qualche chicca degli archivi che non faranno mai parte di altri album o di altre collezioni, diciamo. Interessante, bello. Sì, così. Un così, metodo insomma. Originale. Sì, è soprattutto pensato, no, per le serate, per chi suona, per i selecta che suonano su Sound System, è molto bello. Una cosa che ci piace molto di questo mondo, no, è che ci si scambia pezzi e si portano i pezzi degli altri durante le serate, quindi ecco, una cosa molto bella è fare versioni dei propri pezzi particolari, personalizzate. E rispetto a questo posso anticipare che quest'anno uscirà una versione speciale di Principessa Ortica su un reading però di Wild Step, e quindi andiamo a tecnizzare un pochino Principessa Ortica. Sì. Poi per il resto, con il nostro fantastico gruppo Stork Tales Record, tra l'altro ci tengo a dire che forse siamo tra le poche etichette italiane in cui il rapporto uomini-donne è alla pari, perché siamo 3 e 3, due produttori, due produttrici, una cantante e un cantante, li saluto tutti, non ho nominato Bredda Paride, non ho nominato Findo, che è questa produttrice fantastica che debutta quest'anno con noi, noi ne siamo molto orgogliosi, molto lusingati, con un disco bellissimo che si chiama Urbit e uscirà insomma in primavera. Stiamo lavorando un pochino diciamo al contorno, alla cover, ed è molto bello, magari in chiusura di questa puntata lo ascoltiamo, uno dei suoi pezzi meravigliosi. E quindi ecco, queste sono le uscite che abbiamo in visione. Probabilmente faremo uscire anche un pezzo di Bredda Paride che diciamo è nel nostro roster ma ancora non ha ancora mai pubblicato, quindi quest'anno abbiamo fatto un passo indietro io e lui come produzione, perché come ti ho detto, cioè litighiamo, quindi per noi produrre è comunque un processo troppo impegnativo, quest'anno ci dedichiamo agli altri, poi magari 2027 riprendiamo in mano la fila del discorso e così. Ovviamente trovate tutte le nostre cose su Bandcamp. Ecco, bravo, bravo. Diteci sì, come, sì, dove ritrovarvi e dove non, sì, ritrovarvi anche. Allora, sì, fino adesso tutto quello che abbiamo pubblicato lo pubblichiamo tramite un distributore che ci ha messo anche su Spotify, quindi tutto quello pubblicato fino adesso siamo anche su Spotify, dopo i recenti avvenimenti, no? E quindi una volta scoperta, sgamata questa complicità, insomma, di Spotify con l'acquisto di armi, con la, diciamo, il progetto colonialista israeliano, abbiamo deciso di non caricare più cose su Spotify, di non utilizzarla più, però tutto lo trovate anche su YouTube, tutto lo trovate su Bandcamp. Su Bandcamp, diciamo, è la cosa migliore perché è proprio dove potete anche acquistare i nostri pezzi, hanno prezzi molto popolari. Tra l'altro, ora faccio arrabbiare Freddy, ma io lo dico sempre: se non avete soldi mi scrivete, io ve lo regalo. e quindi ecco, tutte le prossime uscite sicuramente saranno su Bandcamp, e stiamo valutando alcune alternative interessanti che stanno uscendo, anche insomma interfacce inventate da gruppi di artisti che si sono emancipati da Spotify. Quindi ecco, io invito tutti a fare questo sforzo e cercare anche altro, insomma, perché no? Oppure a craccarlo Spotify, si può fare, pirateria è sempre una cosa buona. A voglia, ci sta. E avete anche una pagina social, però non so se la volevi citare. Sì, abbiamo, sì, allora l'etichetta è Stork Tales Records su Instagram, poi lui è Freddy Stork Production e io sono Manifesto Animista, quindi insomma anche lì siamo noi, non abbiamo social media manager, siamo noi nudi e crudi, quindi se ci scrivete rispondiamo, io mi intrattengo sempre molto volentieri a chiacchierare, a scambiare info, libri, consigli, eccetera, quindi dai. Dai. Allora, a questo punto manderei un'altra canzone, visto che appunto mi rimane da chiedervi appunto magari se ridite un po' le prossime date e altre due chiacchiere dopo, quindi sì, direi di far sentire un altro pezzo. Dimmi te quale. Guarda, io se, cioè, andrei alla fine metterei Radicante, che fosse il mio pezzo preferito di entrambi gli EP. Allora, Radicante sia. Dai. Non teme siccità. mia voce non teme siccità. E nemmeno le nostre voci qui temono siccità, infatti. Continueremo a trasmettere, continueremo a parlare a questi microfoni su queste frequenze, le frequenze di Radio Wombat 1359 AM oppure streaming tramite il sito radiowombat.net. Continuate a seguirci, ascoltarci e diffondeteci. Allora, siamo arrivate proprio verso la fine di questa amabile intervista, che bello. Senti, vi chiederei di niente, perché la chiamata è stata interrotta, però ok, scusate, ogni tanto queste inconvenienti succedono. Allora, proviamo a rimetterci in contatto, nel frattempo allora vi mando un altro pezzo. Direi di partire, di farvi sentire, perché no, Raccoglitori. No, scusate. Eccola. Eccoci, dovremmo essere ritornati in voce. Sì. Vabbè, si vede, è cascata la linea, succede. Sì. Succede, il bello della diretta. Esatto. E quindi, ecco, sì, stavo dicendo, se vi va potreste ridirci tutti i prossimi appuntamenti, e quindi ascoltatori e ascoltatrici, certo. Carta e penna, e segnate tutto. Allora, questo 24 gennaio, quindi settimana prossima, prossimo weekend, siamo a Case Matte all'Aquila per una fantastica festa a sostegno con i nostri fratelli di Monkey Man, e quindi vi aspettiamo in terra abruzzese. Dopodiché, a fine gennaio siamo ospiti, cioè in realtà senza Freddy in questo caso, sarò ospite con Wild Step, una delle produttrici del nostro roster, e saremo ospiti di un progetto meraviglioso organizzato da Moon Sister che si chiama Voci da Dentro. Una serata a sostegno dei carcerati e delle carcerate, in cui faremo letture di poesie dal carcere, guarderemo documentari, insomma faremo un sacco di belle cose, e a chiusura ci saremo io e Giovanna e Wild Step a fare un po' di dub techno. E già che ci sono, vi anticipo una cosa che ancora non abbiamo neanche detto quasi a nessuno, ma a marzo torniamo con lo Store Tales Record Party, il volume 2, sempre a Spazio-Tempo, al Circolo Arci di Recanati, una festa appunto in cui celebriamo le etichette indipendenti, in cui avremo ospite con noi un'etichetta indipendente salernitana, i nostri carissimi amati Base Pirates, e quindi sarà insomma una serata molto interessante all'insegna della musica originale. Quindi ecco, aiutateci a sostenere la musica originale, la musica indipendente. Bellissimo, bellissimo. Ancora purtroppo, cioè ancora, diciamo, in programma non ci sono date a Firenze. Ovviamente nel caso ci fossero, i microfoni qui sono aperti, non c'è bisogno, certo, di dirlo. Certo, ci catapultiamoli da te. Esatto, esatto, grandi. Allora, a questo punto, esatto, sì, a questo punto mi rimane solo l'ultima cosa da chiedervi. E le mie ascoltatori e ascoltatrici probabilmente già se lo immaginano. Io, come sempre, quando ho ospiti qui in diretta, che sia fisicamente in regia oppure no, non mi interessa, di solito a fine puntata chiedo sempre una pianta storia. La pianta storia è un format, una rubrica che ho creato un po' di tempo fa, ed è la storia, una vostra storia di vita personale che riguarda una pianta o più piante. Per alcune persone è difficile trovarla, per altre invece è difficile sceglierla fra le tante, esatto, possibili. Quindi sentiamo la sigla e poi mi raccontate le vostre. Dai. I nostri esperti interessati a dialogare con le piante. Pianta storia. E registrarne la sensibilità. Pianta storia. adoro che i cani hanno voluto fare parte della sigla quest'oggi. Ti stavano big upando, come si dice. Stupendo. Era stupendo. Un bel big up. Ok. E quindi decidete voi chi parte e siamo tutti orecchi. Allora, Freddy, vuoi partire tu? Sì. Vai. Allora, pianta preferita. Il peperoncino. Il peperoncino perché in realtà sono cioè, amante delle salse, il peperoncino, quindi spesso mi capita di farle, autoprodurle, un'altra cosa che autoproduco oltre alla musica, e niente, sì, però diciamo che è più una passione culinaria mia che... Diciamo un interesse per la pianta in sé per sé, cioè non sono un grande esperto di piante in realtà, quindi... Non c'è bisogno di esserlo. Sì, sì. Vai, vai. Però sì, ho un amore smodato per il peperoncino, quindi sì, quello sì. Perfetto. Ok. Anch'io rimango nell'ambito culinario, allora. Allora, è difficilissimo, quando mi hai detto che mi avessi fatto questa domanda, ho detto, mamma mia, adesso ho fatto una lista di 20 piante e poi ho detto no. Ne sceglierò una per un motivo particolare e adesso spiego perché. La pianta è il timo, in particolare il timo selvatico, in particolare una varietà che è il timo siriaco. Perché io amo il timo, è una pianta che ho sempre adorato, come tutte le aromatiche spontanee che per me sono un incredibile dono quando le troviamo così e le possiamo raccogliere. Devi sapere che io sono nata in Giordania. In realtà non ho diciamo famiglia giordana, i miei erano lì per puro caso per lavorare, quindi io sono nata ad Amman e lì il timo nasce spontaneamente ed è molto utilizzato soprattutto in Giordania, in Cisgiordania e in Palestina per fare un mix di spezie che si chiama za'atar e che è un sapore che ha sempre fatto parte della mia infanzia, è un sapore che io collego, insomma sai quando i sapori li colleghi a casa in qualche modo, a qualcosa di molto familiare per il cervello, e ho voluto, per il cervello e per il corpo, e ho voluto portare questa pianta perché in Palestina in questo momento, diciamo, le forze di occupazione israeliane hanno reso illegale la raccolta di questa pianta. Quindi puoi come immaginare di tante, che sì. No, è terribile come di tante altre piante, tra le diverse attività con cui stiamo collaborando, stiamo creando un collettivo in coordinamento per la riproduzione di semi autoctoni palestinesi o comunque di varietà affini mediterranee. Ecco, sul tema dei semi qui potremmo, e delle piante, potremmo, su questo particolare tema potremmo aprire un incredibile spazio, magari gli dedicheremo un'altra puntata un giorno. Volentierissimo. Però ecco, voglio portare questa pianta all'attenzione di tutte e di tutti, perché ci ricordi quant'è bello, quant'è importante conoscere le piante che crescono intorno a noi e poterle raccogliere e utilizzare, di quanto questo non sia per nulla scontato. E quindi ecco... Che ogni casa del mondo possa raccogliere timo e possa fare za'atar, se glielo vietano ai palestinesi allora diventeremo tutte palestinesi e faremo tutte lo za'atar. Bellissimo, è proprio sì, un invito che condivido veramente a cuore aperto, assolutamente. Vi ringrazio tantissimo per questi lunghi minuti, quasi ora, anzi senza quasi, che siamo state insieme e sono contentissima di aver avuto l'opportunità proprio di ospitarvi qui ai microfoni, perché il vostro progetto è veramente bello da tutti i punti di vista e ovviamente oltretutto mi foga perché cioè, i testi sono una figata. Con calma magari in prossime puntate magari qualcheduno lo sviscero anche un po'. Se me lo permettete. Certo. Quindi davvero grazie ancora tantissimo e se volete aggiungere qualcos'altro siamo ancora qui a disposizione. Vi direi seminate, seminate, seminate. Seminate anche se non vedrete i frutti. Grazie a tutti, grazie Addo, grazie Radio Wombat. Grazie tantissimo. A questo punto, come si era detto, magari si finisce con una canzone non vostra, giusto? Esatto, a sto punto vi facciamo sentire in assoluta anteprima, anche perché questi pezzi ancora non sono girati, quindi veramente sei forse la prima radio a passarla. Lei è Sindo, in uscita a marzo 2026 per Stork Tales Record. Bellissimo, bellissimo. Dai. A presto, a risentirci, microfoni aperti e sì, seminiamo. Ciao, bello. Ciao. E concludiamo quindi definitivamente questa puntata. Lunedì 19 gennaio abbiamo riniziato col botto questo 2026, devo dire. A proposito, buon anno, vabbè, così un passant. E, sono rientrata in voce giusto per ricordarvi quello che vi dicevo in apertura, proprio a inizio puntata, ovvero l'appuntamentone a cui spero che tutte voi possiate e vogliate partecipare. Si tratta della, diciamo, così col pretesto più che altro, della centesima puntata di Nervature, e quindi sarà fra due settimane, perché questa in atto è la 98esima, per cui settimana prossima c'è la 99esima e poi il 2 febbraio, appunto lunedì 2 febbraio, si farà la centesima al centro sociale Next Emerson. Monteremo una regia aperta, diciamo così, al bistrò, quindi nello spazio di fronte al bar. Chiunque voglia di voi è super ben invitata, ben accetto a venire, a passare, a fare un saluto ai microfoni, a magari raccontare una vostra pianta storia, anche più di una, non vedo l'ora di ascoltarne. Saremo super contente di raccattarne altre, appunto. E quindi la serata si svolgerà così: ci sarà dalle 7, quindi dalle 19, la diretta a microfoni aperti, e poi una cena a prezzi popolari. Nel frattempo, per tutta la serata, il banchino della radio, quindi un po' di magliette, un po' di adesivi, e saremo lì, appunto. E poi dopo cena un bel DJ set. A breve usciranno tutte le informazioni in modo ufficiale e le troverete dal sito lapunta.org, ma anche dal nostro sito radiowombat.net. Appunto, non vediamo l'ora di incontrarci tutte insieme, quindi Next Emerson 2 febbraio dalle 19 in poi. Che dire, io vi saluto e vi saluto con un ultimo pezzo. A questo punto rimane ovvio di chi, sempre dei nostri Amparito MC e Freddy Stork. Che dire, ci risentiamo quindi per la 99esima tra una settimana, quindi sempre lunedì, sempre qui su Nervature, su Radio Wombat. Buona serata a tutte e tutti e mi raccomando, stay Wombat. Fratello asino, ho regalato un fiore. faccio una gran festa, una festa ancor più bella, se diverrà tempesta.